adesso tutti concentrati, mettetevi comodi, è cominciato, l'attesa è finita. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Amico non c'è sta che me può consolare stasera, m'attacco a sta città che si è addormita già da un'ora. Dunque è la Roma che inizia a battere questi calci di rigore. Il capitano giallorosso parte, Pjanic traversa, traversa. Roma nuda, scusa se perdo lacrime di strada. Primo piano per Dzeko, parte Dzeko, il tiro alto, alto. Tanta che so gocce derugiata. Parte Acampora, il tiro, il gol, il gol di Acampora. L'entusiasmo dei 3.000 tifosi dello Spezia, una qualificazione storica per la formazione ligure. E io aggiungo anche meritata, perché davvero hanno fatto una grande partita, se la sono meritata. Roma nuda, non me vuoi dire non sono disperato. Io non mollo mai, non è problema, io spingerò la squadra fino, come l'ho detto, alla morte se serve. Ovviamente che questa sera siamo in colpa perché non siamo stati in grado di segnare un gol durante il tempo normale, non dovevamo andare ai rigori, che dopo è la lotteria, dovevamo vincere prima. Roma nuda. Grande Califfo, che ricordiamo con affetto, con ammirazione. Cioè, non è tutto quello che ha fatto Califano nella sua vita che sia un modello, però ci sono dei pezzi di Califano. Posso farti controcoro? Sì, tu fai quello. Ci sono dei pezzi di Califano talmente poetici e talmente illuminanti che credo che nella vita di ognuno di noi ritornino. Detto questo, siamo qui per parlare di calcio e facciamo quindi i complimenti a Mimmo Di Carlo insieme. Assolutamente, assolutamente. Uno, due, tre, complimenti, complimenti Mimmo Di Carlo. Mimmo Di Carlo. Complimenti, grazie, Mimmo Di Carlo. Grazie, buongiorno a tutti. Come va? Come va? Bene, direi bene. Bene, no? bene, molto bene. Come molto va? Bene, bene. Spezia Alessandria o Spezia Alessandria saranno in semifinale di Coppa Italia. Sì, lo Spezia, fra l'altro, anche il fattore campo. Il fattore campo, so se... ovviamente. È una squadra anche più attrezzata. C'è un amico là davanti al vetro, non so chi sia, non lo conosco, ma sta facendo il tifo. È Spezzino, perché è Spezzino. Spezzino, va bene. È Spezzino. Di dove sei esattamente? Dille, Cinque Terre, dove sei? Manarola, Monterosso. Ricordiamo posto. Le Cinque Terre, mister, sono Monterosso, Rio Maggiore, Manarola, Corniglia e vediamo. Vernazza, risposta esatta, amici ascoltatori. Come si batte la Roma? Beh, giocando, basta andare in campo, giocare una partita solida e seria come ha fatto lo Spezia ieri e si batte la Roma, no? Ma sicuramente è stata una partita perfetta da parte nostra a livello tattico, dove abbiamo concesso pochi spazi alla Roma e siamo stati sempre in partita con coraggio e provando anche a vincere. È chiaro che nell'arco dei 90 minuti c'è stato molto equilibrio, poi i supplementari, penso che solo una giocata di un singolo poteva cambiare un po' la partita, non è arrivata, e i rigori secondo me siamo stati molto più cattivi noi, più convinti noi, perché quelli sono rigori che facevano passare la storia allo Spezia, quindi, certo. Quindi sia il Pizzola sia i giocatori tutti volevano battere i rigori, quindi quando è così è andata bene, siamo stati più fortunati. Mister, sono contento perché affrontiamo l'Alessandria che ha fatto un'altra impresa. Un'altra impresa storica, e quindi abbiamo degli amici ad Alessandria, quindi sono proprio contento anche per questa cosa qui. Beh, ma guardarla all'inglese o alla francese sono storie meravigliose, di quelle del Gangan, di quelle che raccontiamo. Il Calais. Guardandoli in faccia, cosa ha letto negli occhi dei giocatori della Roma, soprattutto nel momento dei rigori? Beh, sicuramente, ripeto, la mia squadra, il mio gruppo in quel momento lì erano carichi a mille, perché, ripeto, erano rigori che facevano passare lo Spezia alla storia, ed è successo questo. Quindi la Roma, giustamente, quando poi si perde non è semplice, perché poi si arriva, vedo che stanno arrivando da un momento anche non positivo, anche se il pareggio di Napoli aveva dato diciamo, della fiducia, però la Roma ha qualità per tirarsi fuori. Sappiamo benissimo che basta una vittoria per ripartire, io glielo auguro, ma i complimenti ieri vanno fatti allo Spezia, perché ha fatto la partita perfetta. Ma c'è un'immagine simbolo che gira molto in queste ore sui social network, che al momento dei calci di rigore ci sono i giocatori dello Spezia che si abbracciano e i giocatori della Roma che sono invece picchiano. No, però sono ognuno un po' per fatti suoi. Ma forse loro sono più abituati, forse arrivare ai rigori, e magari quelli dello Spezia. Noi dello Spezia, probabilmente, ripeto, in quel momento lì, io quando ho scelto i 5 rigoristi erano 10 che volevano battere i rigori. Ma se lei fosse Pallotta, che farebbe? Ma non so, non posso esprimermi sotto questo aspetto qui, perché la Roma, l'allenatore Garcia, c'è la società, ci sono tante cose che non si sanno, quindi spero solo soprattutto che la Roma si riprenda, perché comunque per qualità, per storia, perché comunque quest'anno è stata costruita per arrivare per i primi tre del campionato, che possa riprendersi. Sì, vediamo con calma, perché secondo me invece la parabola della Roma verso il basso è quasi inarrestabile. Poi sappiamo bene come Garcia sia legato da un contrattissimo fino al 2018. È già stato detto anche oggi che lui non si dimette, la società non lo manda via, e dunque la Roma andrà avanti in questa direzione e dimensione. In campionato come siamo messi? La risposta è semplice. Domanda sbagliata. Bisogna vincere, c'è niente da fare. Bisogna sempre ripartire, bisogna azzerare tutto e ripartire. Perché quando non ci sono i risultati, soprattutto le vittorie, bisogna essere bravi, avere delle idee, a trovare con la squadra le idee giuste per cercare di ripartire, di ritrovare l'entusiasmo che comunque sappiamo nel calcio le motivazioni sono importantissime a tutti i livelli. Quindi ripeto, la Roma basterebbe vincere per cercare di ripartire. Questo lo devono trovare tutti quanti insieme. Io lo spero che ce la facciano, perché gli investimenti sono stati importanti, quindi secondo me è solo questione di tempo e di momento. Anche lo Spezia è un presidente importante, molto. Beh, ieri Belinazzo ha fatto una domanda che poi ripropongo, ma così en passant, è più ricco Pallotta o Volpi? Io non conosco Pallotta, ma soprattutto è più ricco Garcia o Di Carlo? Ma guardi, lasciamo stare, chi se ne frega, no, a livello economico la cosa importante è avere allenare una squadra dove ci sono dei risultati, dove si segue, c'è un lavoro, c'è un progetto, e che soprattutto in campo le idee vengono messe in campo e si sia sempre una squadra che abbia voglia di lottare, perché per me le squadre devono essere così. Poi l'organizzazione tattica è importante, ma soprattutto è quello che è la fame, no? La voglia di voler fare qualcosa di importante, e soprattutto sia nella Roma, soprattutto anche nello Spezia, perché noi nello Spezia quando siamo arrivato la classifica è ancora non bella, e quindi bisogna tenere i piedi per terra e cercare di essere umili, ma soprattutto avere convinzione delle proprie qualità di squadra e aggredire l'avversario. Queste sono cose che bisogna fare noi, e per il discorso della Roma, ripeto, gli auguro un grosso bocca al lupo, che possono vincere già da domenica. Ma quali sono i punti deboli? Cioè da allenatore avversario, adesso si può parlare della partita, su come l'avete preparata, che cos'è che colpisce di più? Ma intanto i ritmi che sono stati, speravamo che la Roma non giocasse a ritmi alti, e noi dovevamo chiuderli soprattutto dove loro sono bravi, sulle ripartenze. Chiuse le ripartenze, è chiaro che devono giocare un po' di più dentro al campo, e dentro al campo se tu fai un densità, se non c'è la giocata del singolo fai fatica. Però non hanno neanche grande gamba. Perché sennò... questo fa parte anche del momento. Noi era la sesta partita in 15 giorni, anche noi non è che eravamo brillantissimi, certo. Probabilmente le motivazioni nostre sono state superiori, molto superiori rispetto a quella della Roma. E soprattutto quell'alto ritmo di cui aveva paura, mi pare che non c'è mai stato, perché a me sembra la cosa che mi impressiona di più, al di là di tutto, al di là di tutte le valutazioni tattiche, è proprio che è una squadra che corre poco in questo momento, una squadra che fa fatica a trovare la giocata, a cercare l'uno contro uno. La personalità dei giocatori è legata anche alla condizione della gamba, che in questo momento secondo me non c'è. Certo. Soprattutto alla testa, in tutte le cose. Certo. Soprattutto alla testa in tutte le cose. E penso che a noi, io sono arrivato alla Spezia, chiaramente che la Spezia ha avuto un momento negativo, un mese negativo dove siamo riusciti a svoltare almeno per il primo periodo, perché sappiamo benissimo che la continuità è l'arma importante per cercare di risalire la classifica. E oggi noi stiamo cercando di lavorare su questo. Non abbiamo il tempo, perché adesso andiamo a Brescia, per noi è una partita difficilissima, ma siamo consapevoli che giocando con umiltà e correre e andare in campo con le condizioni che possiamo fare, qualcosa succede. Grazie mister, grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie a Mimmo Di Carlo. Ci fermiamo per il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Dobbiamo avere anche dei giocatori che devono capire dove sono, in che società sono. Siamo una società importante, siamo una squadra che deve essere importante, e se non l'abbiamo capito lo dobbiamo capire in fretta questa cosa, perché non si può uscire a Coppa Italia contro una Serie B, anche con tutta la qualità dello Spezia, perché complimenti a loro, ma abbiamo fatto noi in modo di metterle in fiducia durante la gara. È per questo che serve veramente di dimostrare in campo di avere un atteggiamento differente di questa sera. Parole di Garcia, che si sta consumando a furia di parole. Oggi il tempo, l'hai visto il tempo? Prima pagina? No. Giocatori della Roma che escono dal campo, e il titolo grosso in basso, su questa foto tutta pagina, Anveri che Pippe. Delicato. Squisito, squisiti. Repubblica invece, pagina 56, Fabrizio Bocca, il progetto americano sta fallendo, un pezzo alla volta, la Roma americana si sfascia così dopo 4 anni e mezzo e un calvario di passione, i 6 gol del Barcellona, lo 0-0 in casa con il Bate, ma Bate chi? Lo Spezia che arriva in un olimpico vuoto e fa fuori ai rigori dalla Coppa Italia, i fenomeni e le chiacchiere di Rudy Garcia. Fabrizio Bocca, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Come stai? Bene, grazie. Lo cacciano? Lo cacciano? No, chiedo, no. Scusa, la domanda un po' brutale. Guarda, si va avanti di ora in ora, di resistenza in resistenza. Garcia in questo momento mi sembra un giapponese, sai quei giapponesi che trovavano 30 anni dopo nella giungla, che ancora scappavano e resistevano, credo che sia lì, e mi dicono che sia ben attaccato al suo contratto. La giungla l'ha affittata fino al 2018, Esatto, sta nella giungla fino al 2018, ben nascosto, non si dimetterà mai, perché nel calcio non lo fa quasi nessuno. Forse per un po' di dignità, diciamo così, avrebbe potuto anche farlo, è un gesto che ogni tanto qualcuno fa. Ma parliamo un po' fuori dai denti. Proviamo a parlare un po' fuori dai denti, ripartendo dalla domanda di ieri di Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, buttata lì così: ma è più ricco Volpi o Pallotta a proposito della partita con lo Spezia? Io aggiungo un'altra cosa, voce che mi è arrivata non da Bellinazzo ma da fonti, dal solito uccellino. La Roma la scorsa estate era sul mercato per mandato esplorativo, per 600 milioni di euro. Allora, la sensazione è che ci sia una battaglia in atto, muro contro muro, tra Roma e l'ambiente di Roma. Tra l'altro c'è anche un comunicato dei tifosi che invitano tutti quanti a disertare lo stadio in una partita con il Genoa. E la mia impressione è che tu abbia ragione di fondo sul concetto che il sogno americano della Roma sia agli sgoccioli, stia finendo. Sì, ma questo lo penso anch'io, sai, del resto si sta anche un po' scrivendo da tempo, la Roma ha speso un sacco, parecchi soldi in questo periodo, anche se la tutto sommato è riuscita a prendere la società con pochi soldi, però insomma si è anche investito dentro parecchio, ha fatto dei debiti, il progetto dello stadio non va avanti, quindi se la vittorie non ne arrivano, quindi se la situazione rimane questa è difficile che insomma un investitore straniero di quel livello poi non è che sta qui per affezione o per sentimento, o riesce a far fruttare il business o se no. Aggiungiamo la questione stadio, Pier. Esatto. Aggiungiamo in questo disegno un po' perverso la questione stadio, no? No, assolutamente. Io penso che in generale se uno si mette in questo momento nei panni di Pallotta e pensa che viene in Italia, quando viene in Italia viene insultato, cioè su qualsiasi cosa, può anche pensare che Pallotta possa andare via, come diceva qualche giorno fa Padellaro per esempio, però credo anche che da parte sua un pochino più di presenza o personale o con un uomo forte, a me sembra che in questa Roma manchi un uomo forte. Questo mi sembra l'aspetto più drammatico, perché non mi sembra che ci sia la società. La società c'è quando deve andare a pescare buoni giocatori, quasi sempre, perché Sabatini è un grande talent scout, che poi ha fatto anche i suoi errori, sicuramente, e certe volte si lascia prendere, secondo me, troppo la mano, perché ricordo banalmente Young Ambigua, venduto a 3 milioni e mezzo, oggi poteva essere utile alla Roma di questi primi mesi, tanto per fare un nome. Però insomma mi sembra in generale che manchi la società, non so come la pensa il professor Bocca, però mi sembra. Ma rispondetemi a questa domanda: prendi Capello, quanto costa? Tanto. Prendi Capello, mettilo lì a fare il Boniperti, il problema, a fare l'allenatore. Se tu prendi a fare il parafulmine, oggi liberi ci sono Lippi, Capello, Ancelotti, Spalletti. Che non ci viene, Spalletti, Prandelli. Questi sono quelli liberi, no? Sì. Quindi o aspetti la fine dell'anno per andare su Conte, che credo sia l'idea della Roma. E ammesso poi che Conte fra tutte le soluzioni scelga la Roma, perché poi bisogna vedere pure se la Roma va in Champions League oppure no. Questo al momento evidente. Non è così probabile. No, volevo sentire Fabrizio su questo. Che dovrebbe fare la società? Tu parlavi di uomo forte. Considera che Garcia fino a 6 mesi fa si è spacciato come uomo forte, anzi si è venduto. Si è venuto un uomo forte. Questo tema, adesso cerchiamo di recuperarlo, secondo me è molto importante a Roma, cioè, l'abbiamo sottolineato più volte, a Roma hanno vinto soltanto dei guru, a Roma ha vinto Lidl, che aveva un carisma che arriva da qui a Norrköping, a Gothenburg, a Stoccolma, ed era un personaggio leggendario, erano altri tempi ed era un personaggio leggendario. Poi ha vinto Capello, quanto a carisma credo che non ci siano discussioni. Garcia probabilmente all'inizio ce l'aveva, il problema è che quando si arriva a recidere il tipo di rapporto col pubblico, con l'ambiente e secondo me anche con la squadra, poi è finita. La verità è che poi è finita. Certo. Da questo punto di vista Roma sicuramente è un ambiente più impegnativo rispetto ad altri, perché l'abbiamo detto mille volte, il tanto amore, il troppo amore, arrivo a dirti, in certi momenti può creare un eccesso di tensione che può far casino. Tornato Fabrizio Bocca per chiudere il discorso. Fabrizio. Quindi stavamo dicendo, Garcia si è spacciato come uomo forte, anzi secondo me Garcia che cosa ha fatto in questi ultimi 2 anni eccetera, ha spostato praticamente i riflettori della Roma dai riflettori puntati su Totti a se stesso, e secondo me adesso sembrerà anche assurdo, ma la Roma soffre molto la mancanza della personalità di un giocatore come Totti. Sì, abbiamo detto diverse volte nei giorni scorsi, non solo in campo, ma al di là dell'infortunio lungo, difficile, eccetera, eccetera. Totti è praticamente sparito, se non in tribuna quando si presenta. È un Totti molto defilato. Troppo defilato. Non è un leader di parola, è un leader tecnico, lo sappiamo. Cioè, non è Buffon, non è quello che tutte le volte che la Roma perde una partita va. Buffon, hai visto, nei momenti difficili, sì, è sempre. No. Però comunque, pur se infortunato, Totti è un po' sparito dai radar e non è un caso. Sì, infatti è così. Ma guarda, io sono arrivato paradossalmente anche a dire, se la Roma decidesse di sostituire Garcia, Totti messo lì in tribuna o a giocare ogni tanto un pezzo di partita, poi insomma ognuno di noi si deve arrendere all'età a un certo punto. No, secondo me Totti come giocatore ormai ha fatto il suo tempo e quindi ci deve mettere un punto, basta. Io amo i giocatori che tagliano il filo. Sì, certo, quando è il momento giusto, ma è una delle cose più difficili in natura. Totti adesso potrebbe essere utilissimo in panchina, ma proprio come dico, come allenatore, perché sai, poi gli allenatori si trovano, cioè negli staff ci sono quelli che stanno a preparare la squadra, fare la tattica, eccetera, e lui deve fare il lui dovrebbe fare il catalizzatore della nuova Roma. Sì. Lui dovrebbe fare il catalizzatore della Roma, perché Garcia ormai è uno che ha perso. Poi in tutto questo ci vorrebbe anche un'idea su come proseguire per il futuro, perché non credo che a medio termine l'idea possa essere quella di Totti allenatore, non credo, La mia potrebbe essere Capello che sta in panchina il tempo che serve e poi fa l'uomo forte della società. Ma è una suggestione soltanto mia. Guarda, secondo me tutti questi personaggi qui, Capello, Lippi, sono altri personaggi che secondo me hanno fatto il loro tempo nel calcio. Servono gli allenatori grandi, oggi sono Ancelotti. Sì. Che però sta lì e guadagna un pacco di milioni. Se vuoi fare una grande squadra devi andare a prendere un allenatore di qui, se vuoi fare. Grazie. Magari Fabrizio, devo salutare, grazie. Ciao Fabrizio. Sì, che cosa abbiamo adesso? Alle 2:30 cosa ci sono? Le borse. Poi c'è Andrea da Rimini, 800 24 00 24, numero verde. E poi c'è WhatsApp, no? Come no? 349-238-6666. C'era anche qualcuno di Marino. Io volevo rispondere. Come questo, Garcia mi ricorda l'ex sindaco Marino, ma erano amici? No, invece Fede, che è un tifoso della Juve e parla però della Roma, dice che sbagliamo sulla forma fisica perché a Napoli hanno quasi vinto nel finale. È vero, cioè, però secondo me ci sono due aspetti della forma fisica: la tenuta, e quindi la resistenza, e la brillantezza. La Roma come resistenza ce l'ha, non è che ha dei cali clamorosi nel secondo tempo, non è una squadra che dura 60 minuti. Quello che manca secondo me è la gamba, nel senso proprio della brillantezza del saltare l'uomo. Sì. Su questo io, il cambio di passo, sarà un problema mentale, perché poi quello diceva di Carlo pure può essere giusto, no? Cioè la giocata per farla hai bisogno della gamba, hai bisogno della qualità tecnica che la Roma comunque ha, e hai bisogno soprattutto della testa. Se hai paura di non riuscire a saltarlo non ci vai proprio, quindi questo può essere. Però secondo me anche fisicamente il signor Liquori non lo sentiamo, vabbè. Primo pomeriggio, fra dai, poco borse. Bene, molto bene, il trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Pierluigi Pardo, eccoci che torniamo. Metto la cuffia al microfono. Fa il bravo. Andrea da Rimini, buongiorno. Buongiorno signor Gente, buongiorno signor Pardo. Vi volevo fare complimenti e gli auguri per questa festa a voi e famiglie. Grazie, reciproco. Grazie. Allora, io sposo stranamente l'idea di Pardo, che di solito è molto critico da giornalista, sul discorso Garcia. Sono un romanista io, come si può capire. Secondo me è una questione giustamente di mentalità e soprattutto di incisività dell'allenatore, nel senso Garcia appena arrivò in Italia ebbe quello scatto per fare il passo di differenza rispetto agli altri. Sì. Poi nelle situazioni di difficoltà, quando ha cominciato veramente a dover cambiare squadra, a dover cambiare modulo, si è sempre trovato in difficoltà e la squadra non l'ha seguito. Facciamo gli esempi, ad esempio del Real Madrid di oggi, che non segue l'allenatore, i giocatori sono sempre gli stessi. Sì, facciamo, ma Andrea, alla fine, mo che famo? Aspetti, facciamo l'esempio del Bologna. Il Bologna ha fatto le prime tre partite con Donadoni, la squadra che corre più di tutti in assoluto in Italia, i giocatori erano gli stessi. Sì. Quindi non c'entra la preparazione, non c'entra l'allenatore, la società. Andrea, mi scusi, per usare sintesi, estrema sintesi radiofonica, Garcia è arrivato, sembrava Harry Potter, ha costruito una squadra meravigliosa, poi si è incartato, mo che famo? È un allenatore limitato, ha mostrato i propri limiti, che lui ha il suo modulo, non esce da lì, difatti non è un vincente. Perfetto, cosa facciamo adesso? Ci vuole un allenatore vincente, ma sulla piazza non ci sono. L'unico è Ancelotti, che ha già firmato con il Bayern di Monaco. Cappello non torna. Al di là delle firme, Spalletti? Spalletti no, aspettano Conte. Se si trova un traghettatore fino alla fine, bene, ma non accetterà nessuno le condizioni. Devi anche arrivare in Champions League, perché rispetto agli anni scorsi, dove questo va riconosciuto a Garcia, la Roma ha centrato sempre il secondo posto, che significa certezza della Champions League, e quindi nemmeno il turno preliminare, che troppo spesso, quattro volte negli ultimi 5 anni, gli italiani hanno poi mancato. quindi questo va riconosciuto a Garcia. E adesso però devi arrivarci, quindi la vita è adesso, come canta Baglioni, per quanto riguarda la Roma. Se perdi il treno nei prossimi mesi, poi l'anno prossimo magari devi ricominciare dall'Europa League e non è la stessa cosa. Carmine Napoli, buongiorno. Buongiorno, salve a tutti. No, volevo parlare del commento che si fa su Sabatini, talent scout, ottimo talent scout. Peccato che non faccia il talent scout, ma bensì faccia direttore sportivo. Ha rinnovato il contratto a Garcia, ha preso un certo Rudiger che è praticamente inguardabile, ha venduto il calciatore di colore, come si chiama? Gervinho, poi si è ritrovato, che adesso è importante. Volevo dire, dicendo un ottimo talent scout, mi sembra un po' attrattivo della democrazia cristiana, così, per non dire le cose come stanno, per dire che ha fallito. No, ha lavorato, Carmine, ha lavorato molto, ha fatto molti acquisti. È uno che ha portato in Italia Pastore, è uno che ha fatto delle cose, le cose che ha fatto alla Roma con Benatian, con Marquinhos. Diciamo che era Palermo prima di arrivare qui. Cioè, no? Io credo che la conoscenza calcistica, anche lo stesso la Mela, alla fine, insomma, certo, è stato un colpo per quello che poi ha portato nelle casse. Qualche volta sbaglia e probabilmente ultimamente gli è mancata una figura forte vicino, perché ha avuto chiaramente la responsabilità di dover fare tante scelte, ha preso tante decisioni, molte le ha azzeccate, qualcuna l'ha sbagliata. Dumbia, al di là del fatto che poi è tornato in Russia, segna sempre, però a Roma ha fallito, la cessione di Destro è arrivata in un momento anche sbagliato, mi ricordo quel Roma-Empoli dove Destro era appena partito e ci sarebbe stato magari bisogno di lui perché la Roma non aveva attaccanti. Cioè, a me sembra sinceramente che sia un uomo straordinario, anzi eccezionale, come direbbe Piccinini, nell'andare a scegliere i giocatori, e che però vicino avrebbe bisogno di una figura amministrativa, non lo so, societaria, carismatica, che in questo momento non manca. C'è. Questo secondo me non manca. C'è, e siccome non c'è Pallotta, nel senso che Pallotta c'è ma sta dall'altra parte dell'oceano, secondo me la Roma in questo momento non ha tantissima società. Nei momenti di difficoltà mancano un po' di punti di riferimento. Poi nessun calciatore vuole perdere apposta. Ieri leggevo sui social network, insomma, le polemiche, sì, questo sbagliato giocatori apposta, che vanno a fare gli aperitivi. Non è quello, secondo me, non è quello. Cioè, non è che i giocatori vogliono perdere, i giocatori vogliono vincere. Però magari se il livello di concentrazione e il livello di intensità non è il massimo, poi i risultati non arrivano. E questo, secondo me, è quello che sta succedendo. Cioè, non è che si allenano per perdere, non è che scendono in campo per perdere. Però probabilmente si allenano meno bene degli altri, ma non per cattiveria da parte dei giocatori, perché non sono guidati, perché è venuto meno quel feeling che lega tutte le componenti, quel filo rosso l'allenatore, che lega tutte le componenti. Ragazzi, l'allenatore si becca oneri e onori, cioè non c'è niente da fare. L'allenatore è la sintesi del lavoro di una squadra. Quindi, che dice Di Gennaro secondo te? Vogliamo facci un Gaetano Salvemini, dai, così per buongiorno. Cominciare. Che direbbe Salvemini? Maiala. No, non puoi dire Maiala, dico Fidutta, Gennaro, una cosa più morbida, che ne so. Oh, fuori di dubbio. Fuori di dubbio che la Cremonese, la Roma. Ci siamo. Paro. Grande, scusate, ma io dice. Buongiorno a tutti, Buongiorno, dice. Buongiorno a tutti. Voglio tre uomini su tre pali. Sì, uno sulla traversa. Sì. Senti, mica benissimo anche la Fiorentina ieri, eh? No, devo dire che vista anche un po' allo Juventus Stadium, la squadra che forse ha bisogno di rifiatare e di anche loro di mettere qualcuno nell'organico, perché insomma anche in Coppa Italia ieri hanno giocato gli stessi, quasi appunto, gli stessi, e questo vuol dire che a gennaio qualcosa dovrà essere fatto. Penso che fino adesso abbia fatto un grande lavoro Sousa, certo che diciamo forse la partita di ieri è quella che è un po' complicata e c'è stata qualche apprensione, perché con lo Juventus Stadium fino a 10 minuti alla fine la partita era abbastanza equilibrata, quindi si fronteggiava contro la squadra più in forma del momento che è la Juventus, e la sconfitta di ieri è pesante. Secondo sei me d'accordo se dico che comunque nel complesso queste due partite hanno dimostrato e disegnato il vero limite della Fiorentina, cioè il fatto che è una squadra non sufficientemente profonda per reggere tutte le competizioni a questo livello, perché non dimentichiamo che si è dovuta andare a prendere tre giorni prima della partita dello Juventus Stadium, si è dovuta andare a prendere la qualificazione in Europa League, e sì, quindi diciamo che questo mi sembra il limite, no? Beh, certo, quando c'è un organico del genere, come dicevo prima, i giocatori sono quasi sempre gli stessi. All'inizio magari il turnover è stato fatto anche magari più a livello intelligente, la condizione fisica era diversa, perché sicuramente qualcosa si è visto. Anche mi ricordo la partita col Sassuolo, un primo tempo fantastico, poi il secondo un po' in difficoltà, e quindi piano piano anche questa squadra ha trovato delle difficoltà anche dal punto di vista fisico. Io credo che la classifica non deve dare, diciamo, momenti anche di abbattimento, perché è una classifica buona. Per il resto, ecco, a gennaio qualcosa andrà fatto, però la Fiorentina credo che sia nei programmi, ecco, il momento. Sì, così. Ma si sta sgonfiando questa squadra? A me sembra di no. A me sembra di no. Dice. Dove sta? Adesso si è sgonfiato. Dice sulla domanda. A me sembra. Beh, insomma, comunque. Si sta sgonfiando secondo te? Beh, il calcio è anche episodi sicuramente, però insomma la Fiorentina in quattro giorni, in tre giorni ha perso uno scontro diretto molto importante, che ci può stare che uno perda, con la Juve fra l'altro senza demeritare, una partita che poteva anche finire in parità. La Coppa Italia, questo mi sorprende molto. E poi ha perso in casa con Carpi, cioè, adesso giustamente abbiamo iniziato con mezz'ora di processo alla Roma, però 5 minuti di processo alla Fiorentina pure vanno fatti, perché il Carpi non è lo Spezia certamente, perché è una serie in più, però non è neanche una squadra con la quale ti aspetti che la Fiorentina possa perdere poi in casa, no? Cioè, per la Fiorentina la Coppa Italia quest'anno, in questa stagione in cui hai messo le basi, può davvero essere l'obiettivo stagionale. Ma no? Fra l'altro c'è un ulteriore elemento, no? Che era già uscito il Palermo in quella parte del tabellone, certo. Era già uscito il Genoa, certo. Poi quindi a quel punto la Roma sembrava avere veramente un'autostrada fino alla semifinale con la Fiorentina. E la Fiorentina si è mangiata questa occasione, quindi adesso Samp e Milan stasera avranno loro questa pressione, no? Di avere teoricamente poi ti becchi una squadretta, o Sampdoria o Milan. Beh, ieri molte delle battute appunto erano queste sul fatto che lo Spezia e il Carpi avessero faticato delle provinciali, ma insomma una fra le Sandri e Spezia va in semifinale, quindi voglio dire quantomeno, perché poi c'è la vincente tra il Carpi e una squadra e una delle squadrette di qui sopra, cioè, allora, chi vince stasera fra Milan e Samp è oltretutto col fattore campo del quarto di finale ha un piede e mezzo in finale se fa le cose normalmente. Eh beh, no, ma io poi fra l'altro mi innamoro di queste storie di sport tipo Alessandria o Spezia, ci mancherebbe altro, però voglio dire se guardi oggettivamente la logica, la Sampdoria, se stasera batte il Milan diventa la favorita della parte destra del tabellone per andare a giocarsi una finale di Coppa Italia, e poi magari vai di là te la giochi con la Juve, col Napoli, con l'Inter, con chi sarà, con la Lazio, vedremo. Insomma, però interessante. Intanto sei lì, ci fermiamo per il traffico, poi torniamo da Antonio Di Gennaro. Tutti convocati. Tutti convocati. Rieccolo Antonio Di Gennaro. Sì, ci sono. Stavamo parlando della Fiorentina e dell'occasione buttata. Sì, un'occasione persa, perché dicevo prima, la classifica per quanto riguarda il campionato è ottimale, nonostante la sconfitta contro la Juventus, per esempio, quando ha perso anche con la Napoli e la Roma, con le due sconfitte magari che non ridimensionarono molto, e credo neanche quella di Juventus, quella di ieri, è una battuta d'arresto che non so se potrà pesare in maniera definitiva. No, però deve essere un obiettivo stagionale. Anche perché Antonio, domenica arriva il Chievo è una squadra che anche fuori casa gioca un calcio, certo, propositivo, due punte, il trequartista, cioè Maran sta facendo anche lì un grande lavoro, non a caso il Chievo credo che gli abbia fatto un contratto di triennale, quindi ci sono, è una squadra che se non stai bene fisicamente con l'atteggiamento come ha sempre fatto la squadra di Paolo Sosa, aggressiva e anche qualitativa, puoi correre sempre di rischio, certo. Oggi in Italia abbiamo visto anche ieri nelle altre partite, sì. mi sembra Antonio che ci siano due squadre, Pierluigi, che non fanno sconti a nessuno in questo momento, l'Inter e la Juve. L'Inter e la Juve sconti a nessuno, però, Il Napoli ha avuto la sua battuta d'arresto a Bologna. Beh, ieri è dato un segnale. Però ieri, dopo tre mesi ci sta una partita. Io prenderei quel cammino del Napoli e perdere dopo tre mesi in quel modo, anche se è stato pesante il risultato. No, ma il Napoli secondo me è fortissimo. Vabbè, sapete come la penso. È chiaro che c'è stato un brusco ritorno alla realtà nelle ultime due partite e pesa, perché dopo quegli 80 giorni straordinari, trovarsi con la Juve a meno 2 e l'Inter a più 4 non deve essere il massimo per il Napoli e per l'autostima. Ci dicono, allora, un po' di cose ci dicono. Non vediamo la pelle dell'orso prima di averlo preso, soprattutto quella dell'orso grigio. Marco, evidentemente tifoso dei grigi. Ci dicono di mettere anche l'Udinese, che è l'unica squadra che non avevo citato nella parte alta del tabellone, ci mancherebbe altro. C'è Lazio-Udinese oggi alle 16 e chiedono al professor Di Gennaro cosa ne pensa dell'Hellas, si salverà? È un miracolo, ci vuole, il cambio d'allenatore era normale, anche perché per dare una scossa, per dare un qualcosa di diverso, però la realtà è che bisogna vedere come dal punto di vista anche dei giocatori, insomma Toni è sempre stato determinante, è rientrato, ha fatto un gol su rigore, è fondamentale, però ne mancano troppi e sicuramente un pareggio a volte è un risultato anche negativo per certi versi, per una squadra che deve recuperare. C'è tempo, ma la vedo dura, ma credo anche tutti gli addetti ai lavori di Verona lo sanno, è un'impresa che secondo me è difficile, però insomma c'è sempre la speranza. Anche giocatori come Ionita, è stato fuori molto tempo, che quando stava bene era importante, lo stesso Toni, Pazzini ancora non ha reso per quello che hanno investito su di lui a livello anche contrattuale. Romulo era un giocatore che per Verona era fondamentale, anche lui non sta bene. E poi il reparto difensivo, dove negli anni, anche negli altri due anni, era diciamo il tarlo di questa squadra, però c'era uno che davanti faceva 20 gol al campionato, era diverso. Senti, sulla Juventus invece, poi avrà anche Juventus cura. Ha detto bene per Luigi. No, ma Allegri sai ha un gran culo, quelli che mette giocano bene. Ieri no, è successo, è solo fortuna, no? Il merito di Trapattoni, di Platini. La Juventus ha creato a livello psicologico un problema per tutte le altre squadre, sono d'accordo con Pierluigi, a parte l'Inter, però le altre squadre sanno che è arrivata, che stava tornando, è un fatto anche, ripeto, psicologico per le squadre che non sono abituate. La Juventus poi ritornare dopo le critiche iniziali, sai come lo interpretano loro, no? Dal punto di vista proprio caratteriale, sì. DNA di questa squadra che è ripartita dal 3-5-2, ma dai tre difensori e il portiere, che sono quelli che hanno veramente trascinato tutti dal punto di vista proprio del carattere, della prestazione, della determinazione. Sul gioco ancora, visto ieri, meglio, però fino anche alla partita contro la Fiorentina sul gioco ovviamente c'erano qualche perplessità, migliorata ma non a livello dell'anno scorso, però dal punto di vista del carattere e anche di alcuni giocatori che incarano un po' questa forza. Si parlava tra Mandzukic e Morata. Mandzukic è un giocatore che proprio interpreta questo. Se gli dici di andare a far pressing, lui non ha problemi, lo fa da solo. A Morata glielo devi dire, cioè nel senso che proprio si incarnano in quello che è la Juve, che è sempre stata, e quest'anno ancora di più, perché a livello tecnico qualcosina è mancato. No, non c'è partita più forte Morata, ma serve di più Mandzukic, secondo me, proprio banalmente in questo momento almeno, anche per Dybala, Ovviamente, sì, sì, assolutamente. Ma guarda, proprio secondo me, però ti ricordi insomma che tipo di clima c'era sulle prime volte che veniva scelto Mandzukic preferito a Morata. Momento Ficarra e Picone. C'è Fabio Lechieti che ci scrive: Allegri ieri sera ha inserito Hernanes per giocare 10 contro 10. E Patrizio da Pistoia, credo, dice che l'Inter durerà come un gatto sull'Aurelia. Che è una durerà una come cosa, un gatto sull'Aurelia. Il nostro amico Spezzino, che fra l'altro ha l'Aurelia sotto casa, bene l'Aurelia, no? Com'è vicino Spezia? Beh, non è male. Beh, ragazzi, finora, non è male l'Aurelia dalle parti. Finora insomma siamo alle soglie di Natale. Gatto sull'Aurelia si è comportato anche se forse non malissimo. Punto, punti più belli dell'Aurelia, secondo me, sono due. Posso fare questo momento? Sì, 30 sì, secondi. Sì. Ruta di Camogli, chilometro 500. Quando passi sotto al cavalcavia, i genovesi lo sanno. E poi Livorno Sud, parte di Livorno Sud, che dice Antignano, ma che è Apolidi? Più giù, subito sotto Livorno. Poi vabbè, anche all'Argentario ci mancherebbe altro, sennò poi. Sì, comunque c'è un tizio che è Domenico da Udine che scrive: ti aspettavo a Udine stasera, ti portavo un frico con la C da paura. Sì, frico, è frico il piatto di Udine. Però guarda che poi c'è Ticazia De Luca. Sentilo il macazziato, dice che non gliela frega niente di questa roba. Vabbè, comunque fa la fine del gatto sull'Aurelia l'Inter. No, dice. Secondo me no, non credo, anche perché faccio un paragone. Prima parlavate della Roma, no? La forza della Roma il primo anno qual era? Difesa, aveva anche Strootman, ha perso un campionato perché la Juve è stata devastante, fondamentale, perché la Roma arrivò, mi sembra, 85-86 punti, lo ricordo, ma su 10 campionati si fa 85 punti e ne vinci 9, quell'anno è andata male, ma cosa aveva? Aveva una difesa di ferro. Quest'anno l'Inter ha comprato difensori forti, che sono Miranda, Murillo, e dietro ci sono anche, diciamo, buoni sostituti, ha un portiere eccezionale, quindi la sua forza è stata proprio la difesa nel contempo. Poi adesso è migliorata anche dal punto di vista del gioco, pian piano si stanno inserendo giocatori di grande qualità, e quindi non so se a gennaio farà qualcosa a livello così di giocatori a centrocampo, però non credo che, anzi sono sicuro che non mollerà, e tra Inter, Juve e Napoli si giocheranno lo scudetto. Servirebbe un backup di Icardi? Un cambio per Icardi? Servirebbe un cambio per Icardi? Serve soprattutto Icardi. C'è tanti, loro c'è Palacio che può giocare anche in modo diverso come caratteristiche. però credo che come attaccante, anche perché se arriva un altro vicino, poi sai, possono nascere qualche piccolo problema. Poi a gennaio giocatori forti non è che te ne danno tanti, eh. Assolutamente. No. Assolutamente. E poi se c'è una cosa che all'Inter non manca è la varietà, cioè esatto, la quantità di giocatori, la profondità. La profondità della rosa è pazzesca. Cioè, giocare in più moduli, sì, sì, capito? E questo no, Mancini da giocatore insomma di grande livello, come giocava, è molto intelligente anche dal punto di vista dell'allenatore, ha capito che questa squadra può giocare in vari moduli, cioè ha rispolverato Biavieni, e ben per lui dopo quello che aveva avuto, cioè Gajic sta tornando quello vero, nel senso che quando gioca con quell'intensità e quella qualità diventa un giocatore importante. E poi a metà campo vedo qualche problemino, però basa molto sul fatto fisico, e quindi per sfruttare al meglio, diciamo, quello che gli dà la difesa, soprattutto quello che gli dà la qualità nei, sì, sì, blinda il centrocampo, blinda la difesa, chiude, il centrocampo, chiude le serrature con Melo e Medelli davanti, poi Miranda, Muriglio, non passa nessuno. Miranda veramente mi ha impressionato per la qualità, Miranda è un giocatore straordinario, la personalità che ha mostrato, la tranquillità che dà anche a tutta la difesa. Io vorrei esagerare, ma prendi Miranda, lo metti nella Roma al posto di Rudiger, e poi impressionato. Ma la Roma, vogliamo parlare dell'organico della Roma, perché a me mi scappa da ridere delle volte. Sono d'accordo, cioè, la Roma c'ha solo un difensore adesso forte, Manolas. Rudiger è ancora a Cerbino, l'altro poverino ha avuto un problema serio, serissimo, e sappiamo che ci sono delle difficoltà proprio di inserimento, ma non dal punto di vista, diciamo, proprio della guarigione a livello clinico, proprio a livello psicologico. Alla Roma serviva Yang Ambiwa l'anno scorso, sì, ha fatto però una stagione, voglio capire, no, però voglio dirti, c'è da fare, Pier, però se Romagnoli, io batto sempre su quello, nessuno mi ha risposto, dicono che non è un grandissimo calciatore, ma Romagnoli è tuo, è un 95, l'anno scorso è stato dato alla Sampdoria in prestito per far giocare Yang Ambiwa. Quest'anno è stato dato al Milan per un diciamo così, una vendita da top player, sì, però ti manca come il pane. Ti manca, certo. Questo certo. Grazie Antonio. Ciao, grazie a presto. Voi, ciao DJ. Ciao. Calafuria, Patrizio, Calafuria, bravissimo. Calafuria. Però non posso dirlo, perché sennò De Luca mi cazzia. Calafuria. Allora, sai cosa facciamo? Per non farti cazziare da De Luca, ci fermiamo per il GR. Però mi ha sorriso la Calafuria, sì, sotto Livorno, bravo, sì. Calafuria, bravo. Ci fermiamo per il GR, poi sentiamo Ugo da Reggio Emilia e Piero da Ferrara. 800 24 00 24, il numero 1. Calafuria, non c'è il numero. Ciao Luigi, ciao per Luigi, ciao a tutti e due. Tutti convocati. Sia un Natale emozionante, che fa storia. Beh, un Natale di cuore. E perché no? Anche di denari. Che questo sia un Natale di speranza, che dopo arrivi anche la Befana. Un Natale da raccontare. Radio 24. La passione si sente anche a Natale. Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia. Sono Filippo Astone, vi aspetto ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13 sulle frequenze di Radio 24. Per osservazioni, richieste e curiosità, la nostra mail è fabbrica@radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Che dire, arieccici. Convocati. Pierluigi Pardo qui con me oggi. Ovviamente Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, prima di Ugo da Reggio Emilia, Piero da Ferrara, Lorenzo da Torino già in linea. 800 24 00 24. Sarebbe almeno 28 messaggi sull'Aurelia. Il più bel tratto dopo Livorno è il Romito, ci scrive Ivan da Pisa, e i paesaggi del Ponente, l'altopiano delle Manie vicino a Finale Ligure, l'entroterra di Alassio e Albenga, la cipressa dell'Imperiese. Allora, dai, ditelo, l'abbiamo detto, non scateniamo delle 10 anni fa trovai una gattina con la zampa spezzata sull'Aurelia, l'ho presa, sta con me, però viva l'Inter, viva il Napoli. Sai che paese viviamo, no? Il campanile è tutto, quindi se tu ti sposti appena fuori dal l'Aurelia, dal comune, è tanta roba, però, tantissima l'Aurelia roba. È tanta roba, a parte che insomma è anche cinematografica, no? Il sorpasso, come no? What are we talking about? Di che stiamo a parlare? Prego, chi c'è? Stiamo a parlare di Allegri e dei suoi rincalzi. Ma per Ugani era molto difficile giocare stasera dopo 5 mesi, 4 mesi che non giocava una partita, non era semplice, è stato molto bravo. Zaza è stato bravissimo, Morata ha fatto una buona partita sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto dell'intensità, ha fatto giocate veramente di grande tecnica, quindi questo è importante, perché rispetto a domenica c'erano 5 giocatori nuovi, e quando un allenatore cambia 5 giocatori c'è sempre magari il pericolo che la squadra non riesca a fornire delle prestazioni come la squadra ha fornito stasera. Visto che è così, direi molto importante, perché quando giochiamo una partita ogni 3 giorni mi dà la possibilità di fare anche uno o più cambi. Sì, poi Rugani non giocava perché Allegri non lo faceva giocare, non perché era infortunato, questo vale la pena sottolinearlo. Come sei perfido, no, come sei perfido. Sì, faccio della cronaca. 5 mesi non giocava, ho fatto giocare un mezzo minuto, tra l'altro è... 5 minuti contro Allegri, adesso ci manderà un messaggio sull'Aurelia, perché lui da Livornese... Lo aspettiamo, Max, mandaci un messaggio sull'Aurelia. Ugo, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci mandi un messaggio, da cartoline da Reggio Emilia. Da Reggio Emilia abbiamo poco da farvi vedere. Da San Bartolomeo, no, eh? Non ci abbiamo neanche lo stadio. Lei è un Arzan, giusto? Si è messo un Arzan, certamente. Che vuol dire? Indiscutibile. Ma io non ho capito se essere testa quadra è un insulto. No, cioè, perché dicono che i reggiani hanno le teste quadrate. È un dato di fatto? Cioè, no, secondo me è una leggenda metropolitana. Una cosa che ci creiamo dentro dal Ducato, che sinceramente non riusciamo a scrollarci di dosso. Comunque fa niente. Lei che testa, scusi, per chiudere, poi adesso parliamo di calcio. Lei che testa ha? Cioè, come è tondeggiante, quadrato? Cioè. Beh, io direi una testa tondeggiante, da umano. Ecco. Da umano, sì, no, questo lo immaginavo, anche la voce. Da umano. Sì, da umano. Prego. Niente di particolare. Ugo, me lo perdoni, eh? Sì, me lo perdoni. Pardo va preso un po' per quello che è, meraviglioso, simpatico, ma Cazzaro, sì, sì, no, ma lo so, meraviglioso, è un soggetto così, cioè, a parte che a capoccia sto messo anch'io piuttosto bene, c'ho un capoccione, mi chiamano capoccione, la conosco, prego, ci dica. No, io dico questo, ma di cosa stiamo parlando? Di uno scudetto che ormai è già assolutamente assegnato alla Juventus ormai da tempo. Con tutte le porcate fatte alla Roma, al Napoli, alla Fiorentina, stiamo parlando di scudetto, ma stiamo scherzando adesso. Ieri sera si è vista una cosa incredibile, io una cosa così non l'ho mai vista in un campo di calcio. Sembra per la cronaca che era Coppa Italia. Già, sì. Lo stesso, in una partita di calcio, 3 falli da espulsione, io ho visto ficcare Glick in tribuna, a momenti lo sbatte in tribuna. Non è stato neanche ammonito per una cosa, io l'ho visto, a parte il fatto che la superiorità è schiacciante, Torino con la testa dall'altra parte, quindi il risultato era scontato, però una cosa così sinceramente non mai visto. 3 falli uno peggio dell'altro. Quindi lei dice lo scudetto è già assegnato, perché comunque ma lasciamo stare, ho capito l'antifa, per l'amor di Dio, con quello che abbiamo visto negli anni passati, ma ce ne avanzo, per l'amor di Dio, lasciamo perdere. Finito anche quest'anno, cioè, quindi l'Inter fa la fine del gatto sull'Aurelia, magari calpestato da una macchina col fischietto. La Fiorentina scompare, il Napoli in qualche modo sparirà pure, no? O lo faranno sparire, lei dice, o Sarri dice tutte le volte. Però c'è De Laurentiis che dice, che parla della lotta a scudetto invece, e lui mica si arrende. Ma guardi, lo scudetto è la motivazione base del campionato, è come se lei mettesse una pepita d'oro, cioè, chi è che arriva lì se la prende? È chiaro che questa pepita d'oro motiva tutti quanti, se non ci fosse la finalizzazione di uno scudetto forse saremmo tutti quanti meno motivati. Quindi dire che non interessa lo scudetto è barare, no? Lo si fa per scaramanzia, lo si fa per non dare false illusioni, lo si fa anche per non essere così annientabili se poi lo scudetto non arriva. annientabili. È la pepita, la pipita, la pepita. La pepita messa in cima all'albero della cucca. Vabbè, dai, è giusto, giusto. Tutto, tutto corretto. Ovvio, ed è tutto corretto. Outing sul fatto permettendo, che il Napoli non sta, parlando, non sta parlando di scudetto per scaramanzia, ma giustamente per scaramanzia e per. E perché poi c'è Ugo che dice: ma tanto è tutto già deciso a favore della, dei poteri forti. A me ad oggi non, mi sembra. Anche a me non sembra tantissimo, però vedrai che lo scopriremo. Piero Ferrara, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. Sono un tifosore romanista. Sì. Vorrei esprimere qualcosa sulla Roma che mi sembra generalmente sottovalutato. La Roma mi sembra una Babele tecnica, una Babele di squadra, una Babele linguistica, comportamentale, sportiva. Abbiamo due greci, due bosniaci, un ivoriano, un maliano, un nigeriano, un egiziano, un belga, un turco, un polacco, un francese e fuori ogni tanto un italiano. Già questo è un grandissimo errore strategico per una squadra come la Roma. Cioè, sì, l'Inter, prendere la rosa dell'Inter. Ecco, l'Inter che è in testa alla classifica. Tra l'altro, prendere la rosa dell'Inter. L'Inter ha elementi che hanno una tradizione sportiva importante, sudamericani, oppure hanno i croati, slavi, sì. Beh, teoricamente potrebbero avere anche motivi di attrito superiori se venissero in qualche modo. Ma non ne farei una questione tecnica. No, io penso che abbia ragione Di Gennaro quando dice che c'è una sopravvalutazione della forza della Roma. Ma insomma, io lo dico da un po', dall'inizio della stagione. Poi questa Roma qui, cioè quella che perde in casa 0-0, quella che perde con lo Spezia o che fa 0-0 col Bate, o la Roma vista nelle ultime partite, è molto al di sotto, secondo me, di quello che potrebbe fare dal punto di vista tecnico. Detto questo, secondo me non è la favorita, come dice Cruciani, forse per scaramanzia, come diceva Cruciani all'inizio della stagione, non è la squadra che è numero uno del campionato, perché secondo me ha dei limiti tecnici abbastanza evidenti, perché Castan ancora non è tornato. E bisogna dargli ovviamente tutto il tempo dopo quello che ha passato, e quindi la difesa ha veramente solo un buon giocatore su quattro, molto molto buono, che è Manolas, e il centrocampo è un buon centrocampo, ottimo, ma non è così superiore rispetto a quello degli altri, e l'attacco ha tutta una serie di punti interrogativi, e la Roma non ha avuto fin qui Higuain, ma ha avuto un Dzeko che sbaglia tanto, quindi insomma mi sembra non mi sembra la squadra più forte del campionato. Mi sembra però di poter dire, su questo non ci sono dubbi, che Garcia ha perso il controllo nelle ultime settimane. Su questo non credo. Non è una questione di linguistica, non è una questione di passaporto, questione, di tecnica, di motivazione, di una condizione fisica, nel calcio del 2015, di come ci si allena. Lorenzo Torino, buongiorno, grazie Nica. Di avermi richiamato. Grazie a lei. Mi riferivo alle partite di Coppa Italia di ieri, premessa la grande delusione di Fiorentina-Roma, che chiaramente hanno sbagliato l'approccio, come pure il Torino, ma l'arbitraggio a favore della Juve, Zaza non espulso, è scandaloso. Mm-hmm. Domenica rigore per la Fiorentina, in tutte le partite vedo che il giocatore che fa fallo, giallo, o se è occasione da rete, rosso. Sì. Chiellini è inammonibile. Forse le regole sono quelle. Beh, a Reggio Emilia col Sassuolo l'hanno espulso, giustamente. Sì, vabbè, ma a quel punto. Ma no, guardi, non posso dire una cosa. Io ne ho fatte un po' di partite della Juve quest'anno. Non vedo questo vento. È chiaro che la Juve, come tutte le grandi squadre, la squadra più forte che c'è stata negli ultimi anni in Italia, sicuramente in una ragione di psicologica sudditanza nella testa degli allenatori, sicuramente mediamente, se andiamo a fare le tabelle che avrà Graziano Cesari sul suo comodino, ma che io non ho, probabilmente come tutte le grandi squadre qualcosina in più rispetto alle piccole squadre ce l'ha, però ad oggi francamente non vedo questa mostruosa discrepanza tra una grande e l'altra, tra una grande e l'altra, non vedo una e le moviole. Ma facciamo rispondere a Giampiero Timossi. Cosa dici? Timo. Ciao Timo. Ciao, buongiorno. Io intanto sto con Cruciani e non sono d'accordo con Pardo. Ma stai facendo il vento, Pierluigi? Sto facendo la chiamata con Timossi. Come stai, Timossi? Stai bene? Un po' sorpassato. Sì, ma io credo che la Roma sia la squadra più forte del campionato. Quella sì? Che davvero? È arrivata seconda nelle ultime stagioni. Non si è indebolita, non ha perso giocatori importanti, ha preso giocatori fondamentali in attacco, quindi non vedo perché non ci sa che un po' tutti davamo una Roma favorita inizio campionato. almeno sulla carta. Poi in questo momento forse, anche sicuramente non è più la favorita. Però quella difesa come la valutiamo? Beh, la difesa la valutiamo come la valuta giustamente Pierluigi. Tanto probabilmente ma non è un la difesa è l'elemento, no, è l'elemento che va rinforzato, però ripeto, era la squadra che l'anno e ha cambiato il portiere, mi sembra che abbia fatto sul portiere un buon investimento, malgrado insomma ci siano alcune critiche rispetto alla scorsa stagione. Quindi, con un elemio credo che abbia ragione chi crede che la Roma col passaggio del turno in Champions possa in qualche modo dare una svolta, è stato un passaggio vergognoso per lo spettacolo, però intanto è arrivato, chissà. Forse la stagione della Roma potrebbe davvero ripartire da lì. Però intanto ci andiamo a vedere Spezia Alessandria. No, non sono d'accordo, ma l'abbiamo parlato prima. Insomma, nel senso che secondo me, per carità, è arrivata seconda anche lo scorso anno, ma è arrivata seconda perché aveva fatto una meravigliosa prima parte di stagione e poi ha rischiato di arrivare quarta. Cioè, il 2015 della Roma è stato catastrofico. Dopo la vittoria 1-0 nella prima giornata del 2015, Udinese Roma 0-1 col colpo di testa di Astori e il compasso, era dentro, mica dentro. Pensa a chi faceva tre. Ma il vero errore anche in questo, credo che il vero errore sia stato ancora una volta dell'allenatore, che non ha saputo comunque l'anno scorso gestire momenti difficili. Quindi insomma, qui tu sei dell'idea che vada mandato via o no? Sono dell'idea che forse era opportuno non far iniziare il campionato a questo allenatore. Adesso credo che il ragionamento molto banale che si faccia anche da Roma sia quello: non si è mai vista, sono decenni che non si ricorda una squadra capace di vincere lo scudetto cambiando in corsa, e soprattutto ormai a questo punto della stagione l'allenatore sia un ragionamento sensato. Però se la Roma deve ancora sperare di poter vincere lo scudetto, deve forse fare una mossa azzardata, qualcosa che in passato non è mai stato fatto, cioè trovare una soluzione diversa in panchina. Mi sembra che io ieri ho seguito la partita Roma-Spezia, la prestazione dei giocatori mi è sembrata eccessivamente sottotono, come Pjanic o Dzeko hanno tirato quei calci di rigore, mi è sembrato decisamente così. Cioè, me lo stai dicendo con malizia? Cioè, sì, lo sto dicendo. Stai sottendendo una certa malizia? No, io credo che comunque non abbiano dato, cioè non stiano, oppure sentire l'allenatore che dice voglio 11 lupi in campo e poi vedere quei giocatori la partita contro il Bate, mi sembra insomma che sia non sia malizia mia, sia se sottenda un certo atteggiamento. Insomma, poi non so se i giocatori abbiano davvero la personalità mandar via un allenatore come Garcia. Sì, io non so chi che in questo momento abbia la personalità o semplicemente i poteri per mandar via un allenatore che ha il contratto fino al 2018, tant'è vero che mi risulta sia stato anche oggi confermato, no? Però non bastano queste frasi di Garcia. Dalle agenzie risulta che sia stato confermato e che non ci sia nessuna intenzione. E mi ha fatto un po' sorridere, sono resterò fino alla morte, che vuol dire? Sono che stiano un po' esasperando i toni. Però tutto sommato credo che la Roma, se vuol davvero provare a dare una svolta, debba cambiare qualcosa in panchina. Resto convinto di questo. Non credo che sia sempre giusto puntare l'indice contro gli allenatori, ma in questo caso sì. Sì, ci sono dei casi estremi, sono d'accordo, ci sono dei casi estremi in cui senza questa mossa rischi di non raccogliere nemmeno quanto potresti anche all'interno di una singola difficile stagione. Si può discutere, insomma è anche vero che l'Inter è favorita da questa straordinaria coincidenza, avere una rosa competitiva, molti giocatori, la possibilità di cambiare molti giocatori perché insomma a parte la Coppa Italia non ha altre competizioni. È anche qualcosa di rivoluzionario in senso insomma senza allargarci troppo, però la gestione di questa Inter da parte di Mancini è qualcosa di rivoluzionario, anche se poi c'è chi dice come scritto, perché tanto al momento giusto ci si metteranno i grigi, che non sono quelli dell'Alessandria, ma sono grandi quelli dell'Alessandria. I grandi sono i fischietti o i neri, quelli che una volta erano i neri a definire lo scudetto per la Juventus. Senti, stasera Pierluigi, una partita in qualche modo psicodrammatica, no? Sampdoria Milan, tra l'altro con la possibilità di raggiungere la pepita di De Laurentiis, che non è quella tricolore dello scudetto, ma è quella della Coppa Italia. Sì, beh, stasera, a parte appunto che c'è questa autostrada che si è aperta, insomma, al di là del fatto che poi a questo punto Sampo e Milan non potrebbero sottovalutare il Carpi, e in semifinale non si potrà sottovalutare la vincente di Spezia Alessandria, ed è bellissimo che sia così, però è ovvio che quella sensazione di avere davanti a sé un orizzonte quasi sterminato fino alla finale, che poteva avere la Roma ieri e poi che poteva avere la Fiorentina, adesso ce l'hanno in mano Sampo e Milan, su questo non ci sono dubbi, anche perché poi la semifinale contro Spezia o contro Alessandria sarà in doppia partita, e quindi nella doppia partita è ancora più difficile, secondo me, che ci possa essere una sorpresa dal punto di vista tecnico, no? La bellezza della Coppa Italia di quest'anno e in generale dell'FA Cup, poi nell'FA Cup si può giocare anche in casa della squadra meno forte, quindi è ancora più bella, è proprio che nei 90 minuti possono succedere cose che ovviamente in 38 giornate non potrebbero capitare, e quindi secondo me Samp e Milan stasera hanno una grande possibilità, sono due squadre che non stanno bene. Potrebbe essere la rivincita di Mihajlovic e di Pioli questa sera. Sì, oppure potrebbe essere la rivincita di Montella, nel senso che comunque Montella ha bisogno innanzitutto di vincere una partita. Sì. E ha bisogno di cambiare completamente il passo, al di là del pareggio dell'altro giorno all'ultimo minuto contro la Lazio. E poi sappiamo anche che Montella comunque era un obiettivo del Milan, cioè era uno di quelli ai quali comunque ogni tanto arrivavano delle telefonate, diciamo così, di simpatia e stima professionale, legittimamente, no? Sì, oggi anche il presidente Ferrero ha un po' punzecchiato Mihajlovic, ha detto non è più generale di una volta, però lì credo che la scelta di Mihajlovic sia giusta, proprio perché, come ha detto Pierluigi, si è aperta un'autostrada in Coppa Italia, la probabile decisione di far giocare la miglior squadra, il miglior Milan, credo che sia saggia, anche perché non vedo altri particolari obiettivi per la squadra di Mihajlovic in questa stagione. Senti, ma ragionando invece in termini di mercato, facciamo un gioco rapidissimo. Chi daresti all'Inter, chi daresti alla Juventus, chi daresti al Napoli? Come profilo di giocatori, eventualmente. Beh, l'Inter credo che sia un passo da Cagliari, insomma. Comunque sì, mi sembra che Mancini l'ha detto anche nei giorni scorsi, in questo momento l'Inter è completa. Alla Juventus darei un trequartista e soprattutto un altro, ancora siamo ancora lì con il trequartista, non sto parlando di un trequartista, darei un trequartista, quello che voleva Allegri, che non gli hanno preso, dai, anche perché almeno così evitiamo questo assoluto equivoco, no? Marotta dice Allegri non mi ha mai chiesto un trequartista, Allegri oggi ha avuto un po' il coraggio di dire no, gliel'ho chiesto uno, gliel'ho chiesto anche uno vero, si è capito, voglio solo giocatori da Juventus, ha un significato preciso, vuol dire non volevo Hernane. Certo. L'altra squadra che mi hai chiesto? Napoli. Chiedono anche del Genoa, Timo. Il Genoa sta passando di proprietà, insomma, ieri abbiamo visto che Calabro ha detto che ormai è fatta, arriverà al derby a Genoa, quindi poi toccherà a Calabro insieme a Preziosi, cioè resterà in società a cambiare, comprare il mercato. Napoli non lo so, credo che il Napoli sia già... anche il Napoli sia completo così, non credo che siano Roma e Juventus in questo momento che hanno più bisogno. Il Napoli un centrocampista in più, secondo me, per fare un po' più di turnover. Di turnover e di numero. Grazie Giampiero. Grazie a voi. Ciao. Io penso all'Inter darei... Ci insultano sia gli Juventini che gli altri Juventini. Che ha chiamato enorme il signor titolo, Ugo. Enorme Ugo. Titolo di merito. Quindi per gli Juventini dovevamo dire Ugo, ma vattene, pezzo da bacchettare. Per quegli altri invece non l'abbiamo supportato abbastanza. Fate come pare. Io, poi domani giochiamo ancora su questa roba. Però io all'Inter darei, io insisto, un backup per Icardi o all'italiana. Un cambio per Icardi magari con altre caratteristiche. Però una punta vera, perché mi sembra che Palacio sia vicino alla Mazza Caffè, per dire chiaramente. Palacio... alla Juventus un eventualmente un vice Khedira, uno al posto di Khedira, perché ancora sto ragazzo non ha capito che cos'ha, e al Napoli quantomeno un difensore e uno che possa permettere ad Allan o a Jorginho di respirare. Assolutamente, soprattutto quello, la difesa era il punto debole della squadra, mi pare sia stata puntellata molto bene, poi è chiaro che si può sempre fare meglio. Dobbiamo salutare, ci dice il professor De Luca. Quante telefonate sono arrivate oggi? Una marea, una miriade, un numero esagerato. Stiamo parlando di 457 milioni di telefonate. E stop al televoto. Grazie brevemente. Facciamo anche qui gli auguri, 60 anni di matrimonio Biscardi, Grande Aldone, tanti auguri. Auguri. Un abbraccio. Auguri. Torniamo domani noi. Grazie Pierluigi Pardo, Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferranati, regia. Ciao. Arrivederci ragazzi, ciao.